Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mancano un paio di giri. Federico è secondo ed è matematicamente campione, ma continua a spingere rischiando troppo. Cerco di farlo rallentare, ma il suo meccanico mi ferma dicendomi: vuole vincere la gara, non fermarlo. Sono le 16 e 7 minuti in diretta, come al solito, ma non come al solito, dal flagship store Pirelli di Corso Venezia Milano. Buongiorno e benvenuti a Voi Siete Qui. Buongiorno a tutti quelli che sono presenti e che si fanno sentire. E subito Franco mi urla un bravo così a secco, senza nemmeno... Franco, posso dire prima di cominciare? Franco prima è il signore che saluto qui in prima fila. È venuto a dirmi che, beh, di mestiere fa il direttore d'albergo, ma che la mattina lui si sveglia alle 5, non ho capito bene perché ti svegli, però si alza alle 6 e alle 5 accende la radio e ascolta il programma. Con le radiocuffie per non svegliare sua moglie. Un applauso a Franco che non sveglia la moglie. Noi oggi dal flagship store Pirelli, in cui abbiamo, oltre a tutta la meraviglia che ci sta intorno, un simulatore, cioè abbiamo una macchina di Formula 1. Tra l'altro, Antonio, mi confermi che si può salire dopo? Chi vuole provarlo può provare il simulatore. La vera notizia di oggi, cioè la notizia, la storia di oggi, è che noi abbiamo qui in diretta un amico del programma, perché già abbiamo mandato in onda una storia l'anno scorso, giusto? Un anno e mezzo fa, che noi conosciamo semplicemente come Federico, sì. Federico Sandre per l'esattezza, ma che i più conoscono come Fede Skid. Federico ha 12 anni ed è già, vi dico qualcosa velocemente, primo classificato campione italiano Kart Rocky Champion Car 2010, secondo classificato finale internazionale Kart Rocky Champion Car 2010, terzo classificato campione italiano Kart Mini Champion Kart, campione nazionale 2010 Kart Rocky, vice campione internazionale. Insomma, Federico ha 12 anni e già praticamente candidato a vincere tutto, più o meno. Ciao Fede. Ciao. Come stai? Bene. Federico stamattina aveva un compito in classe. Sì, due compiti in classe che dovevo recuperare quando sono stato assente, perché dovevo andare a fare delle gare. Ecco, perché qua di fianco a noi ovviamente c'è anche Livio, che sì, è il papà di Federico, che non è venuto con un go-kart qui in Corso Venezia. Diciamo, non è facilissimo conciliare l'attività che è semiprofessionistica di fatto. Sì, in realtà è di fatto un'attività professionistica, perché l'ambiente è molto professionale, le gare durano qualche giorno e quindi si deve assentare da scuola e allora, benché lui sia giustificato dall'essere assente da scuola, questo non giustifica il fatto che lui possa prendere dei voti scarsi, cioè comunque a scuola deve andare bene e quindi deve tenersi al passo di suo. Federico è del 2002, che fa ridere pensare, cioè avendo qua davanti a me delle persone più o meno attorno, una media sarà 40-45, un po' più su, c'è una signora che fa su, beh, c'è la signora Ersilia, signora ne ha quanti? 87, per cui abbiamo, però c'è anche una bimba più, quanti anni hai tu? 10. Hai 10 anni, quindi abbiamo 10 anni, 87 anni, ci sono tipo 5 generazioni di mezzo. E Federico, che ha 12 anni e che è campione nazionale di go-kart, sapete cosa sono i go-kart ovviamente? Sì, sono quelle macchinine, come si definisce un go-kart, Fede? Che motore ha? 60, cioè dipende, ci sono diverse categorie in base all'età che si ha. Il tuo quanti cilindrata è? 60. 60, sì. 60 cc. Sì. E quanto va veloce? Nella pista più lunga d'Italia va sui 110. Ok, perfetto. Noi non vogliamo sapere cosa pensa la mamma di Federico quando Fede va a 110 su una pista. Tra l'altro leggevo qua sul suo sito che è Skid Kart. Perché il soprannome Skid da dove arriva esattamente? Lo spiega Fede. E allora mio papà negli anni 80 guardava, forse non guardava, vogliamo saperlo, sì. Siamo sicuri di volerlo sapere, vabbè, il papà guardava, sì, io non me lo ricordo molto bene il nome, solo che era un film inglese dove c'era questo ragazzo qua con la macchina rossa che scappava sempre dalla polizia e c'era questo giudice qua che lo chiamava Skid. Ok, perfetto, quindi siamo da un punto di vista educativo un disastro, partiamo subito malissimo. Partiamo subito con i ladri d'auto. La cosa buona è che Federico ha l'aria di un ragazzino molto consapevole Cioè, sembra che tu abbia più età, più anni di me, in realtà, Federico, dal tuo sguardo. Però, se andate sul suo sito, che è skidcart.com, c'è tutta la rassegna stampa. Federico è tra i primi 5 nel mondo. L'undicenne Sandra è protagonista alla World Series con una gara fantastica. E poi ancora, il mio preferito in assoluto è Fede sul podio mondiale. Lo studente delle elementari dell'IMI è arrivato terzo alle World Series. Tra l'altro, le World Series, noi ci stiamo preparando alle World Series, sì, vero? Sì. Fede, sì, ieri sì. Hai fatto le prove. Sì, sì. Dove sei stato a farle? A Sarno, in provincia di Napoli. Su un circuito grande quanto? Sì, sì, sul circuito più grande d'Italia, che è grande 1700 metri. Ok, e come sono andate? Bene, sì, siamo andati sempre bene nelle prove libere e in qualifica, solo che abbiamo... abbiamo beccato un treno di gomme che non andava tanto. Chi lo dice, l'altro qui dentro treno di gomme, devo dire che è il posto migliore per nominarlo. E quindi un pochettino sì. Ho avuto qualche problema. Ho avuto un po' di difficoltà. Vabbè, ma quando è la prima gara? Quando è la prima gara? La prima gara è questa settimana qua. Questo weekend qua? Sì, sì, sì. Benissimo, sono sempre le 16:13 minuti. Questa è Voi Siete Qui, siamo in diretta dal flagship Tor Pirelli di Corso Venezia 1. E noi oggi raccontiamo la storia di Federico. Questo racconto, Livia, quando risale più o meno? Questo racconto risale al 2011, se non erro, che è secondo anno di attività di Federico. C'è un aspetto divertente, scusami, ne parlavamo prima, ed è che Federico, che voi vedete così, se non lo vedete, pubblichiamo una foto su Facebook tipo adesso. Chi lo può pubblicare? Elisa lo pubblica, guardala. Elisa, adesso trova modo per pubblicarlo. Federico, che è un ragazzino di 12 anni, ha un meccanico ovviamente di riferimento, che è il suo meccanico, che è un uomo di 40 anni invece, esattamente. Con cui quando rientra dal giro parli di cose tecniche. Sì, tipo? Per esempio gli dico fra una mancia e l'altra, facciamo delle modifiche e io gli dico se siamo migliorati, se siamo peggiorati, poi alla fine si fanno sempre diverse modifiche. Ma ad esempio tu cosa gli dici? Guarda, per va esempio, troppo forte. Se il telaio scivola dietro, se è frenata il dietro spinge il davanti, se gli manca il davanti, se c'è troppo davanti. È una questione di dietro e davanti, mi pare di capire sostanzialmente. Alla fine gli dico come va il motore. E come va il motore? Cioè dimmi tipo, è troppo grasso? Sì. Troppo grasso l'ho detto perché me l'ha detto Olivia, non saprei mai dire. La carburazione è troppo grassa. Sì. E cosa vuol dire che è troppo grassa? Cioè dimmi l'effetto che fa una carburazione troppo grassa. Ti fa rallentare, ti fa scoppiettare il motore. Non lo so, Dipende, dipende dalle condizioni, dal tempo che c'è. Dal tempo atmosferico? Sì. Cioè se è più secco è più grasso? Sì. Non lo so, Federico chiaramente mi compatisce perché non so assolutamente nulla di cui parlo, perché non ho manco mai elaborato un motorino. 349-238-6666, adesso rilassati Fede. Ricordatemi dopo che dobbiamo parlare della questione carburatore di notte. Tenete in mente carburatore di notte e ne parliamo dopo. È arrivato il momento di raccontare la sua storia. Siamo nel 2011, dove ci troviamo esattamente? Spettacolare, non spero l'avversario, attenzione che sta strettissimo, Skid si protegge ma forse esce peggio, più piano ma che abbastanza veloce per andare a tagliare per primo il traguardo e vince Skid. Già ho avuto modo di raccontare di quel fantastico anno d'esordio che ebbe Federico e finì quella storia dicendo che l'anno successivo Fede arrivò all'ultima gara ancora con 9 punti di svantaggio sul primo. Ora vorrei raccontarvi in breve quell'anno e soprattutto il finale di stagione. In quell'anno, nel 2011, forte della vittoria ottenuta nell'anno precedente, Federico passò di categoria, approdando alla categoria 60 mini, sempre all'interno del Challenge Champion Kart. Ovviamente, sempre lì stiamo, Fede. Nessuno di noi si aspettava nulla dalla stagione di esordio. Ci ponemmo come obiettivo quello di rientrare nei primi 10 classificati. Le prime due gare furono di puro apprendistato, dovendosi comunque confrontare con bambini più grandi. Era oggettivo aspettarsi qualche sprazzo di competitività e nulla di più. La terza gara si svolge sul circuito di Pomposa, sui lidi ferraresi. Qua notiamo subito che Fede riesce ad interpretare la pista in modo eccellente e la sorpresa arriva con il terzo tempo in qualifica. In partenza commette un errore di gioventù, andando ad autoeliminarsi, rientrando in pista ottavo. E qua... che con una rimonta eccezionale passa tutti giro dopo giro andando a vincere la prefinale. Da qua il campionato è tutto in salita e Fede è sempre a podio fino alla penultima gara, che vince sul circuito di Siena con ben 7 secondi di vantaggio sul secondo classificato. Questa escalation di competitività porta Fede ad essere mal visto, tanto che durante l'anno riceviamo diverse visite da parte di altri genitori che sostengono senza mezze parole che in qualche modo trasgrediamo le regole ferre del campionato, usando materiali non conformi. Tutto questo naturalmente viene sempre confutato dalle verifiche tecniche. Quindi giungiamo alla gara finale, nella quale arriviamo con ancora 9 punti di svantaggio sul primo classificato. Anche qua, insomma, è necessario vincere o arrivare davanti al primo in classifica. E alla fine nessuno ci crede più di tanto, insomma. Un ragazzino appena arrivato non ce la può fare. Nelle prove libere siamo in difficoltà con le gomme nuove, tanto che Federico, contro il parere dei meccanici, impone di andare a qualifica con le gomme usate. Fede, gli dico, le gomme nuove ti danno qualche decimo di vantaggio, se vai con gomme usate sei spacciato, ma niente, lui vuole le gomme usate. Ok, gli dico, il gioco è tuo, fai come vuoi tu. A 2 minuti dalla fine delle qualifiche Federico ha il secondo tempo. Controlliamo dal monitor e informiamo il suo meccanico, il quale quasi salta in pista per incitarlo. All'ultimo passaggio è in pole position. Ed è qua che qualcuno comincia a preoccuparsi. Non è che questo vince veramente. La sorpresa però è pronta ad arrivare, perché inizia a piovere. E questa è veramente dura. Federico deve partire dalla pole senza avere mai provato sul bagnato. Alla partenza ci pensano comunque gli altri a spingerlo via verso il prato. Fede è fuori. Ok, è tutto finito, pazienza, è andata comunque bene. E invece no, perché rientra, riprende la gara e non solo, prende un ritmo tale che gli permette di recuperare posizioni su posizioni. Mancano un paio di giri, Fede è secondo ed è matematicamente campione, ma continua a spingere, rischiando esageratamente sulla pista viscida. E allora cerco di fargli segno, piano Fede, piano. Ma il suo meccanico mi ferma e mi dice, vuole vincere la gara, non fermarlo. Ok, mi dico, lasciamola andare. Ed è qua che, per passare il primo in classifica, Federico si mangia il campionato, finendo lungo e uscendo di pista. Il bello fu che, vedendolo guidare in quel modo, nessuno pensò più al campionato. E quegli attimi e le gratificazioni furono molto appaganti, molto più appaganti di qualsiasi vittoria ottenuta. Questo è un altro capitolo della breve storia di questo piccolo pilota. Lo so che può sembrarvi il racconto di un pazzo scatenato, ma le emozioni che Federico ci fa vivere sono proprio queste qua. Le 16:21 minuti, siamo sempre in diretta con un sacco di pubblico qua davanti che ovviamente si fa sentire anche questa volta dal flagship store Pirelli di Corso Venezia numero 1. Prima vi dicevo del simulatore dentro a una macchina di Formula 1 che è parcheggiata qui dentro. Appena sono arrivati Livio e Federico, abbiamo chiesto a Federico, vuoi farti un giro? Federico si è infilato lì dentro e non usciva più. E, vabbè, chiaramente tu hai la PlayStation a casa, sì. Quindi un pochettino la sapevi gestire. Sì, sì. Però è arrivato sul Gran Premio di Monza, secondo, solo dietro al tempo di Jean Alesi, che dentro a quella macchina aveva fatto il record della pista. Federico, poco prima di cominciare, ha cominciato a dire, io dovrei andare a casa a studiare, perché domani hai una verifica su, me lo dici cosa devi fare? Devi fare una carta d'identità. Un'interrogazione di storia, però volevo fare un compito su questa carta d'identità, su un personaggio religioso. Che già uno dice la carta d'identità sul personaggio religioso, però ci spiegava Livio, sì, che fa la prima media è in una scuola media. Sì, una scuola paritaria. Paritaria. Vogliamo nominare, così sono contenti. Sì, l'Istituto Maria Immacolata di Gorgonzola. La Maria Immacolata, certo. Come no? E domani dobbiamo presentare una carta d'identità su un profeta che è... Sì, sì. Geremia. Geremia. Ora, io sfido chiunque là, qua dentro, a ricordare chi è Geremia. Geremia, ve lo dico io perché sono andato su Google, anzi su parrocchie.it, giuro esiste un sito che si chiama dice Geremia era un ragazzo di soli 12 o 13 anni quando fu chiamato a essere profeta nel 627 avanti Cristo, che noi oggi vogliamo leggere un po' come la storia di Federico, che ne aveva quanti anni quando hai cominciato a guidare una macchina, un go-kart? 5 anni. E ovviamente sei stato tu a dire papà, papà, papà, Mi porti su un go-kart? La verità è che Livio ha un po' di senso di colpa, perché sì, in realtà vero. Diciamo è sì, stato. In realtà lui si è avvicinato perché io in quegli anni ho gestito per circa un anno un'attività di noleggio kart in una pista a sud di Milano, quindi lui era sempre lì, si è avvicinato in quel modo. Quando è che hai, cioè che avete capito che Federico insomma va un po' più forte degli altri o della media degli altri, quindi era, aveva senso gareggiare? Ma forse il primo anno di competizione, quel 2010, dove lui vinse il campionato italiano della categoria Rocky. Sì. Ma la categoria Rocky, perché si chiama Rocky? Perché ti ricorda o un cane? Sì, ma in realtà non saprei dirtelo, okay. Perché non è una decisione mia. Fossi stato io l'avrei chiamata Rookie nel caso, però va bene. Perché? Rookie perché i debuttanti generalmente vengono chiamati Rookie. Ah, ok. E quindi poteva essere forse più... però va bene, insomma. Federico, tu hai sugli occhiali perché sei miope, presbite. Sì. Sei miope, miope. Quindi tieni gli occhiali sì. Perché da lontano non vedo tanto bene. Da cui miopia, sì. Insomma, sostanzialmente. E tieni gli occhiali sotto il casco? Sì. Si può fare? Sì, non sono questi, un altro paio di occhiali comunque normalissimi, solo con una montatura più... che insomma riesce a indossare più facilmente. Intanto mi scrive Margherita, che ringrazio, che non è qui con noi purtroppo, Margherita Ina, non nel senso che non è più qui con noi, nel senso che è rimasta in sede Radio 24, mi dice che abbiamo appena pubblicato il video e le foto di Federico sul nostro profilo Facebook, è sempre quello, voi siete qui R20, no, voi siete qui Radio 24, oppure voi siete qui R24, è il profilo Twitter. Me la racconti la storia del carburatore? Perché io quando me la raccontavi sono uscito di testa. Sì. Prima allora, praticamente in questo anno che hai raccontato tu, quando lui cominciò insomma ad avere qualche risultato e appunto come ti dicevo qualcuno cominciò a lamentarsi. Ma tu dai anche questa cosa, cioè gli altri genitori, è una guerra, gli altri genitori arrivano e ti dicono voi state facendo sì, qualcosa noi, di illegale. Ce lo venivano a dire in faccia, ci dicevano guarda io preferisco dirtelo in faccia, secondo me voi non siete a posto. Ah. Nel senso come mezzo. Hai mai visto dei genitori picchiarsi tipo? Sì, no. sì, a te è successo. A te è successo? No, io in realtà le ho prese. Però con un genitore, con un commissario. Sì. Sì, davvero da un punto di vista educativo tuo figlio ti dà sì. Ma dei metri sì, avanti, scusami sì, doppia. Nel senso che un commissario stava sì no perché ci fu un vogliamo raccontarla siamo sicuri ma no direi che è meglio no lasciala sorvogliamo però il papà le ha prese sì però le ha prese quindi invece vabbè. Insomma questi vengono e ti dicono sì, secondo sì, voi sì. State secondo noi state sì, facendo sì. Qualcosa di contro sì. Le regole in realtà lui aveva diciamo questa tra virgolette marcia in più. Veniva anche dal fatto che in quella categoria particolare il carburatore aveva la possibilità di regolare appunto la carburazione con una vite, quindi loro mentre guidano possono regolare questa carburazione. La cosa straordinaria è che ci sono un sacco di donne qui oggi al flagship Tor Pirelli che alla parola carburazione, carburatore, vite tipo svengono. Diciamo, sì. Diciamo che possono cos'è modificare... il carburatore, Livio? Il carburatore è quell'oggetto che miscela l'aria e la benzina che vanno nel motore. Benissimo. È semplice. Di solito noi mettiamo le chiavi nella esatto, macchina e parte invece okay. Ci sono dei go-kart che possono modificare esatto, il livello di carburante. Possono modificare le prestazioni diciamo del motore con una vite insomma. In tempo reale giusto? Tempo reale, per cui esatto. Mentre lo dico io non perché tu semplicemente che, mentre corrono Fede vuoi dirlo tu? Mentre corri semplicemente capisci se è grasso o magra sì. e modifichi proprio a mano. Sì, sì. Sì, giri si, una... si gira questa vite qua tra, e... con due dita proprio. Sì sì. Sì. Ok, benissimo, diciamo okay. Questo è l'antefatto. Cosa succede la notte a casa Sandre no, mentre Federico diciamo va a letto? Che lui prima di andare a letto aveva un carburatore diciamo in camera, infilava un guanto di quelli che usa per guidare e si allenava a prendere in mano questa famosa vitina e aprirla e chiuderla di quanto bastava per poi poter modificare il rendimento del mezzo in gara. E quindi quando poi lui era in gara era in grado di fare questa manovra che altri non riuscivano a fare. Per cui dopo magari dopo metà gara quando il rendimento del motore cambia e va modificato lui era in grado di modificarlo e far sì che rimanesse efficiente fino alla fine mentre altri diciamo avevano qualche posso qualche... chiedere a Paolo di fare una foto alle facce del pubblico adesso sulla spiegazione del carburatore di spiegare, no ma era chiarissima diciamo l'immagine che noi vogliamo tenere è questo ragazzo a letto, nel suo letto, con un carburatore di fianco. E mi dicevi un guanto da meccanico. Sì, sì, un guanto da pilota. Un guanto da pilota, perfetto. 349-238-6666. Tutti quelli che hanno dormito con un carburatore di fianco possono telefonarci. Mi dici qual è il tuo rapporto col tuo meccanico? Mi dicevi prima che è molto simpatico. Sì, sì. Soprattutto perché è napoletano. E qui subito del regionalismo, volte, ovviamente. Sì, delle volte. Alcune volte parla il suo dialetto e quindi faccio un po' fatica a capirlo. Tipo, che cosa ti dice in dialetto napoletano? Non ci viene, però sostanzialmente sono amici, ti metto la dentiera. Benissimo. Sono le 16:28 minuti, quasi 29, quindi stiamo per finire. Federico, io però vorrei capire una cosa, perché tu hai l'aria di essere uno talmente pacato che anche durante la gara non si emoziona. No, il pubblico l'ha visto a casa, ha scosso la testa come dire, boh, un po' non me ne frega niente di emozionarmi. Come se mi emoziono soltanto prima della gara, quando sono in parco chiuso, prima di partire. E quanto dura? Mi viene l'ansia, l'emozione. La gara dipende dalla lunghezza del tracciato, cioè perché per esempio nelle manche di qualificazione, su questo tracciato qua, il più lungo d'Italia, le manche durano 5 o 6 giri, poi dopo la prefinale penso 8, 9 e la finale 10 giri. A me spiace, dobbiamo chiudere, mi spiace perché dobbiamo chiudere, ma mi spiace per tutti quelli che non sono qui oggi, perché sentire queste parole in bocca a questo ragazzino qua ha un effetto un po' straniante e un po' meraviglioso. Federico, Livio, grazie mille per essere venuti. Fede, quando è la prossima gara? Sabato. Sì. In bocca al lupo, ovviamente la portiamo a casa. Sì, certo. Ci proviamo. Grazie a tutto il pubblico che è stato presente, di nuovo. Grazie ad Antonio che ci ha ospitato, grazie al Flagship Store di Corso Venezia numero 1. Andate a vedere le foto che trovate sul nostro profilo Facebook. Io ringrazio di nuovo Federico, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Vai. Sono Vanni Menani e vivo a Pistoia. La storia di domani è la mia e parla di una lingua espressa così un po' all'italiana, tra virgolette. Questa è la mia storia ed io sono qui.